L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio a tutti per questa nuova puntata dell'Altro Pianeta, nella quale parleremo di vino, perché più o meno tutti sapranno che questa è stata la settimana del Vinitaly e quindi è stata l'occasione per conoscere il mercato del vino, sapere come va e apprendere con piacere che c'è sempre più attenzione alla sostenibilità dei prodotti vitivinicoli italiani, e non tanto perché aumenta la vendita del vino biologico, ma perché aumentano i progetti per la produzione sostenibile e rispettosa di acqua, suolo, aria, biodiversità. Ricordiamo tra tutti il progetto Viva del Ministero dell'Ambiente, che però non è l'unico. Al Vinitaly Radio 24 è stata ospite dello stand del Consorzio Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene di OCG, quindi vuol dire denominazione di origine controllata garantita. È un'area, quella del Veneto, tra Conegliano e Valdobbiadene, in provincia di Treviso, che è famosissima e che è stata molto discussa però nei mesi scorsi per la coltivazione quasi intensiva delle viti. Ci fu, forse ricorderete, una tragedia, quella di Refrontolo nell'agosto scorso, che portò l'attenzione appunto su questa area. Troppa coltivazione, si rischia l'indebolimento del territorio, si rischiano altre frane, una serie di considerazioni che furono fatte in quei giorni e che noi abbiamo voluto riportare a Filippo Taglietti, agronomo appunto del Consorzio Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene di OCG, che abbiamo incontrato al Vinitaly, e questa appunto è stata la nostra conversazione. Conegliano Valdobbiadene è una realtà storica, 50 anni diciamo di disciplinare di produzione e 50 anni, poco più di 50 anni che cerchiamo di tutelare il territorio. Lo facciamo assecondando il lavoro dei nostri viticoltori, lo facciamo naturalmente su base Glera, che è il nome che diamo adesso al Prosecco, ma è un nome semplicemente del vitigno, e insieme alla Glera uniamo anche quelle che sono le varietà autoctone presenti nel nostro territorio, quindi la Bianchetta Trevigiana, la Perera, Verdiso, magari nomi che a qualcuno dicono poco, però per noi sono la sostanza del prodotto e dello spumante. Certo è che la Glera domina il panorama viticolo per il 90%, e poi ci sono queste varietà minori che i produttori e i viticoltori saggiamente utilizzano mescolandole assieme, facendo le cosiddette cuvée, i tagli, per dare qualche sfumatura diversa al prodotto. Comunque sono tutti vitigni che nella storia, e quindi da più di tre secoli, regnano sulle nostre colline. Cioè, se dovessimo guardare gli statuti coneglianesi di fine Settecento, ci ritroveremmo con queste varietà bacca bianca che venivano addirittura esportate nei paesi dell'est. Quindi parliamo di storia. Questa antichità addirittura adesso vi ha portato poi a pensare a diventare progetto di candidatura a patrimonio UNESCO, quindi appunto l'antichità anche di questi vitigni fa sì che questa zona sia particolarmente pregiata e possa ambire a questo riconoscimento. Beh sì, è un'ambizione che, non tanto un'ambizione, ma probabilmente è un percorso che si va a compiere, quindi si è costituito un gruppo di lavoro naturalmente che sta portando avanti questo dossieraggio molto importante per la nostra realtà, ma è frutto di anni di storia, di anni di cultura, si dice proprio un gene sostanzialmente è stato gettato qui chissà da chi, e anche un germe è nato questo capolavoro che è il nostro Prosecco Superiore, e oggi cerchiamo di tutelarlo in tutti i modi, e naturalmente la candidatura UNESCO come paesaggio culturale unisce sia questo aspetto di viticoltura e storia della viticoltura con l'aspetto della sapienza e dell'ingegno umano. L'ho portata a dire questo anche perché mi interessa chiarire agli ascoltatori che questa produzione appunto ha radici antiche, ha una tradizione forte, ha una grande attenzione alla tutela del territorio, perché altrimenti non si riesce a raggiungere l'obiettivo che è questa produzione di Prosecco Superiore, no? Decisamente, quando ci si sofferma o ci si può pensare, oggi siamo al Vinitaly, alle realtà vitivinicoli più importanti al mondo, non si può dimenticare che hanno radici antiche, se non antichissime, pensiamo al Tokaj ungherese. Pertanto qui affondano le radici delle piante che si sono adattate, quindi c'è un'interazione tra la pianta, il vitigno, in questo caso la glera, e l'ambiente di coltivazione. Questo fa sì che metta proprio le radici e oggi l'uomo sostanzialmente le alleva, le coltiva come fossero dei figli, insomma. Senta, parliamo di un'area diciamo allargata sulla quale si è molto discusso. Una coltivazione intensiva della vite può mettere davvero a rischio le persone che vivono in determinati territori? In che cosa si differenzia la vostra produzione rispetto ad altre magari più recenti, più giovani? Beh, guardi, allora, al di là delle tragedie, che naturalmente noi siamo stati colpiti da un evento calamitoso che ha portato purtroppo a quelle morti, in realtà il fatto, noi, la nostra particolarità è che eventi calamitosi ormai al giorno d'oggi sono purtroppo imprevedibili, ma anche si possono essere anche attesi e previsti. Però la particolarità della nostra zona, della nostra denominazione, è che fondiamo la produzione su una realtà viticola molto, molto antica, fatta di viti che hanno tra i 30 e i 50 anni di età, nelle parti diciamo soprattutto collinari. Quindi questa realtà, unita al fatto che una pianta vecchia non può avere un apparato radicale diciamo che esplora solo i primi centimetri della superficie di un terreno, ma affonda le proprie radici addirittura fino alla roccia madre, consente di dire che al di là chiaramente magari di sistemazioni agrarie esecrabili, che per carità ci possono anche essere e vanno perseguite, la nostra realtà cerca di tutelare il profilo della collina mantenendo una sorta di consolidamento, una solidità strutturale proprio del terreno, evitando quindi anche eventi franosi. Quindi il rischio c'è se c'è disattenzione nel momento in cui si dice impianta un vitigno, cioè se si sceglie un luogo sbagliato, questo rischio allora aumenta? Sì, come in tutte le cose, sicuramente se non si fanno... Non è che vogliamo dare la croce addosso? No, ma... In generale sì, certo è che per quanto riguarda i nostri viticoltori, essendo la maggior parte delle giornate sulle pendici delle nostre colline, cercando di prendersi cura delle vigne, sono dei custodi delle nostre colline, quindi cercano di evitare qualsiasi tipo di smottamento, di problema di questo tipo. Sono proprio degli idraulici fuori casa. È una bella definizione. Senta, questi idraulici fuori casa però sono anche un po' dei chimici, perché so che devono avere, proprio per rispettare il protocollo di produzione, particolare attenzione nell'uso di appunto prodotti chimici o comunque. Cosa fanno in particolare per la tutela del territorio e anche di chi ci vive poi, perché comunque si tratta anche di quello? Beh, diciamo che molto dipende dalla sensibilità di ciascuno di loro, quindi molto appunto è frutto anche di una propria cultura. Il fatto che la nostra realtà sia, come dico, come distribuzione vitata, così parcellizzata, così frammentata, sia vicina anche alle abitazioni, unisce una complessità ulteriore, tant'è che spesso da noi si dice che il vigneto di casa è un cortile, o viceversa, il cortile è un vigneto. Questo fa sì che l'attenzione per l'utilizzo di sostanze chimiche, che naturalmente sono inevitabili quando si parla di agricoltura, vadano... Centro di Nate, noi diciamo come consorzio abbiamo avviato dei progetti insieme all'Università di Padova e all'Università e al Centro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano e per ridurre la nuvola diciamo di irrorazione di questi prodotti utilizzando o degli impianti fissi abbiamo realizzato un prototipo su un vigneto di alta collina oppure attraverso dei modelli per la previsione delle malattie che attaccano la vite e in questo modo cerchiamo da un lato di ridurre questo spray che solitamente si utilizza con gli atomizzatori o dall'altra parte attraverso questo modello che è un software che possono usare molti tecnici magari ridurre il numero di interventi e quindi riducendo anche i costi per il viticoltore e naturalmente ne beneficia anche la salute umana. L'altro pianeta. Seconda parte dell'altro pianeta, ancora ben ritrovati da Laura Bettini. Stiamo parlando di vino in questa puntata in onore del Vinitaly, dove abbiamo incontrato il nostro ospite Filippo Taglietti, agronomo del Consorzio Prosecco Superiore di Conegliano Valdeobbiadene di OCG. Abbiamo parlato con lui della sostenibilità della produzione del vino, dell'attenzione che va riservata al territorio anche nell'impiantare nuovi vigneti, dell'antichità dei vigneti del consorzio e ora stavamo dicendo proprio poco prima della viabilità dell'uso di sostanze chimiche. Il consorzio sta cercando di ridurre la nuvola di irrorazione di questi prodotti con ritrovati tecnici che consentono di usare meno prodotto su aree più precise, quindi con un beneficio per le persone, l'acqua e il suolo. Queste sono magari attenzioni che da un lato dovrebbero essere già scontate. Noi il nostro compito come consorzio è quello di fornire nuove soluzioni che le stiamo cercando di darle proprio per rendere meno impattante possibile il lavoro dei vigneti e quindi creare una sorta di piccolo rumore di fondo come se fossimo delle piccole formiche che senza dar fastidio a nessuno cerchiamo di fare il nostro lavoro. E questo le garantisco, da questo punto di vista i produttori sono estremamente sensibili perché, le ripeto, per qualcuno dei vostri ascoltatori che magari ci sta seguendo, chi ha visitato i nostri luoghi sa benissimo quando parlo di bosco e vigneto frammisto o mescolato uno all'altro, quindi l'attenzione è massima per noi. Senta, l'investimento che viene richiesto a un agricoltore che appunto si vuole dotare di questo software, ad esempio, di cui lei parlava, viene ripagato in un periodo lungo, medio-lungo, addirittura breve? Senta, l'investimento che viene richiesto a un agricoltore che appunto si vuole dotare di questo software, ad esempio, di cui lei parlava, viene ripagato in un periodo lungo, medio-lungo, addirittura breve? No, brevissimo, perché è un costo estremamente accessibile. Tra l'altro adesso come consorzio noi ci doteremo anche di questo sistema proprio per dare delle informazioni capillari ai nostri produttori. Si tratta di installare una banalissima centralina meteo che anche un hobbista si può procurare al costo di qualche centinaio di euro. E insieme sono in commercio diversi modelli di questo tipo di cui vi ho parlato, noi ne abbiamo testati tre e anche questi si possono forniti a noleggio per 500, 600, 800 euro anno come canone. E però i frutti si vedono già dalle prime esperienze, cioè riducendo il trattamento per ettaro di uno o due volte già i risparmi possono andare dai 70 a 100 euro a trattamento, quindi voglio dire parliamo di una riduzione di costi interessante. Io in trasmissione ho parlato spesso di DOP, di IGP, voi siete DOCG, giusto? Quali sono, in che cosa si differenziano poi? Perché poi quando come consumatori ci troviamo a scegliere dovremmo anche sapere che cosa rappresenta una sigla o un'altra. Diciamo che DOP sta per denominazione di origine protetta e fino ad oggi è stata utilizzata per tutti i prodotti agroalimentari, vino escluso. Da qualche anno è stata estesa la normativa anche ai prodotti vitivinicoli, quindi anche noi siamo una DOP a tutti gli effetti. Infatti oggi nelle etichette di vino si potrebbe scrivere anche DOP, ma è stata, come è venuto anche per la Francia, per le AOC, è stata mantenuta la dicitura anche per il DOC di OCG, come si è utilizzato fino ad oggi, si continua a utilizzare. Tutta qui la differenza, noi siamo dei nostalgici, quindi manteniamo DOC e DOCG. Ok, e quindi è più restrittiva rispetto all'IGP? Sì, assolutamente sì, è assolutamente restrittiva in termini di controllo, perché il sistema di certificazione delle partite DOC e DOCG è assolutamente a maglie più fini rispetto a quello dell'IGP, quindi nel nostro caso, al di là dell'origine delle uve, è garantito sia la qualità del prodotto, ma anche e soprattutto la quantità di prodotto. Quindi a ogni fascetta, bene o male, corrisponde una bottiglia di vino e uno o più grappoli per pianta, per vite. È complicatissimo il sistema, però è affascinante. Bisogna esserci dentro. Bisogna esserci dentro. Io credo che come consumatori però sia necessario, insomma, informare, far sapere, perché quando scegliamo, no, al banco, dobbiamo anche sapere cosa scegliamo. Però per sollevare magari dall'imbarazzo un consumatore, deve sapere che questo sistema di controllo si basa su più commissioni tecniche che valutano sia in campo con un riscontro della produzione, sia al tavolo con la qualità organolettica, sia con analisi chimico-fisiche ben precise da laboratori certificati. Quindi la tracciabilità di filiera, diciamo, in questo sistema nulla sfugge, e quindi anche a livello di repressione frodi, sicuramente per l'Italian Sounding o cos'altro è un altro discorso, ma noi parliamo di un consumo consapevole e, diciamo, controllato. Da questo punto di vista, insomma, direi che oggi bere vino, al di là di bere bene, è sicuramente un bere italiano in questo caso. C'è molto tentativo di contraffazione sul Prosecco, adesso non dico sul vostro appunto che è così controllato, ma in generale sul Prosecco sì? Come tutte le realtà che funzionano, come mi viene in mente il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano, per dirne alcuni, chiaramente siamo oggetto di imitazione, sia come nome, ma anche come prodotto, per cui leggevo di Prosecco della Crimea, ma fa parte del gioco. L'importante è che riusciamo a tutelare e credo che ci riusciamo, perché insomma la squadra che lavora in consorzio, dal presidente del consiglio di amministrazione fino ai dipendenti, diciamo, è formata da gente molto competente. Ma avete anche la scuola enologica d'Italia, la prima? Sì, noi nel nostro logo di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore ci chiamiamo così dal 1876, proprio perché l'anno di nascita della scuola enologica, la prima in Italia, e quindi è giusto dare riconoscimento, visto che è la scuola che sforna un grandissimo numero di enologi che poi ogni anno vanno ad accrescere la qualità e il valore del prodotto nelle aziende. Basti pensare che per ogni azienda abbiamo più di 2,5 enologi, senza dividere nessuno. È un bel lusso che possiamo permetterci. Ma gli studenti da dove vengono? Sono italiani? Sono stranieri? Allora, io avevo fatto un colloquio per capire, per avere dati, ma credo che sono andati in overbooking come iscrizioni, e questo capita da più di qualche anno, e la presenza straniera è sempre più importante, cinesi, australiani, perché c'è un buono scambio tra la scuola enologica, questa di Conegliano, e l'Australia o la Nuova Zelanda, però sudafricani anche, qualche un americano, però insomma cominciano a essere molti e diversi, magari anche in Erasmus. Ah, addirittura in Erasmus, molti quindi provenienti da paesi europei. Il Sudafrica, quindi sempre attivo adesso, vedo addirittura che arrivano da studiare lì, quindi insomma sempre sono entrati abbastanza pesantemente, insomma negli ultimi anni hanno avuto anche un po' di successo, insomma c'è stato il periodo almeno, una moda. Esatto, è sempre, il vino è abbastanza moda, ma voglio dire, sono fenomeni che ad esempio quando si parlava di Nuovo Mondo sembrava che dovessero soppiantare il mercato europeo, comunque il vino italiano, ma in realtà insomma... Il vino italiano, secondo gli ultimi dati che vedo arrivare dal Vinitaly, invece sta andando fortissimo, non è che ha tutt'altro che essere soppiantato. Cerchiamo di non buttarci, come capita spesso per noi italiani, la croce addosso, per cui cioè, sfruttiamo il momento e crediamo nelle nostre capacità che sono sicuramente, noi siamo riconosciuti nel mondo per essere i più creativi. Il vino, dico sempre, è un prodotto che... Perché il vino è creativo? Assolutamente, cioè è materia prima, è materia viva che viene che la natura ci offre e ci regala, però se non c'è creatività e non c'è passione, e noi ce ne mettiamo tanto quando facciamo le cose bene, non riesce bene un vino. È come preparare un piatto, se non c'è amore nel piatto, insomma non c'è speranza neanche di fare una cenetta intima o romantica, quindi bisogna, come in tutte le cose, ci vuole passione, e il vino è proprio passione e creatività, sicuramente. Ancora una volta grazie a Filippo Taglietti, agronomo del Consorzio Prosecco Superiore di Conegliano Valdobbiadene. Prima di chiudere però vogliamo ricordare un altro appuntamento annuale, dopo quello del Vinitaly di cui abbiamo parlato finora. Cade proprio oggi la Earth Hour del WWF, l'ora della terra. Questa manifestazione che vuole unire il mondo contro il cambiamento climatico. Stasera alle 20:30 si spegneranno le luci di almeno 300 monumenti italiani, piazze, castelli, edifici storici, a Milano l'ex Gate. Maria Grazia Midulla, responsabile clima del WWF. Sì, quest'anno per la prima volta si spengono i tre luoghi simbolo delle tre religioni monoteiste, la sinagoga, la moschea e di nuovo, perché lo faceva anche gli anni passati, la Basilica di San Pietro. Questo è il segno che la sfida del cambiamento climatico è una questione morale. Dobbiamo lasciare alle future generazioni un pianeta abitabile, dobbiamo fare in modo che gli interessi di parte non ci impediscano di fermare il cambiamento climatico. Qual è lo stato di salute della Terra? Sono ormai molti anni che avete inaugurato questa iniziativa, c'è qualche segnale di miglioramento oppure no? Qualche segnale laddove si è agito c'è, per esempio siamo riusciti ad arginare l'assottigliamento dello strato di ozono, però bisogna agire con molta più convinzione, bisogna anche cambiare molto profondamente alcuni modelli di sviluppo, per esempio quello fondato sui combustibili fossili. Oggi nell'atmosfera noi abbiamo una concentrazione di CO2 di 400 parti per milione, almeno da 800.000 anni questo non si verificava. Forse in altre ere geologiche sicuramente la concentrazione sarà stata anche maggiore, ma il pianeta non era abitabile. È davvero tutto, grazie a Maria Grazia Midulla, responsabile clima del WWF. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora da Laura Bettini. Un buon proseguimento d'ascolto.